18 dicembre del 1912, il conservatore del Dipartimento di Geologia del British Museum ed un noto avvocato appassionato di scavi e affascinato dai reperti fossili annunciarono alla Società Geologica di Londra di aver fatto una mirabolante scoperta nella contea del Sussex, a Piltdown per la precisione. Avevano rinvenuto resti fossili umani che indubbiamente a parer loro costituivano il famoso anello mancante fra la scimmia e l'uomo. Fra quei resti c'era un cranio, infatti, e questo cranio vantava una capacità di 1070 centimetri cubici, una misura giusto a metà strada fra le misure proprie di un cervello di scimmia e di un cervello di uomo. Piltdown e le sue vicinanze furono meta dunque di numerosi pellegrinaggi di studiosi che peraltro furono spesso baciati in fronte dalla buona sorte, potendo annunciare al mondo nuove scoperte a conferma del primo ritrovamento. Fra questi fortunati ci fu anche il filosofo gesuita Teilhard de Chardin, che fervente naturalista e fiducioso nel contemperare cattolicesimo ed evoluzionismo, a Parigi ottenne la libera docenza sui mammiferi dell'Eocene inferiore e a Piltdown scoprì un dente canino inferiore con tutte le caratteristiche giuste per l'occasione, un po' umano e un po' scimmiesco questo canino. La fortuna di Piltdown durò fino al 21 novembre del 1953. Allora, quando il Times si decise a pubblicare la ferale notizia che tutta la vicenda era stato soltanto il risultato di un abile imbroglio ordito da qualche burlone o da qualche tenace oppositore del darwinismo. E in questa caccia molto tardiva al colpevole molte sono state le ipotesi formulate. C'è chi ha indicato con sicurezza i primi scopritori, chi perfino Teilhard de Chardin, chi altri. Nel libro Le bugie della scienza di Federico Di Trocchio, un libro uscito nel 93, ritrovate ben ricostruita tutta la storia di questa truffa, dove si dice anche che sulla base delle prove documentali e indiziarie raccolte dall'archeologo americano Winslow e da un giornalista, il colpevole più probabile è proprio Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, lo scrittore, si dice, ben noto, noto scrittore per aver creato il personaggio di Sherlock Holmes, no? e anche per le sue convinzioni anti-evoluzionistiche. È non senza una buona dose di sorpresa allora che leggendo i giornali dell'altro ieri vengo a sapere che uno storico americano in questi giorni asserisce di aver scoperto la stessa cosa. Secondo lui il più probabile responsabile della truffa di Piltdown sarebbe per l'appunto Conan Doyle, e questa, devo dire che questa riscoperta del già scoperto mi appare ancora più inquietante della falsa scoperta che ha dato il via al tutto. Faccio un altro esempio. Un mese fa il Corriere della Sera ha pubblicato un interessante articolo su Alex, un pappagallo cenerino di origine congolese che, grazie alla pazienza di Irene Pepperberg dell'Università dell'Arizona, parla inglese, accetta interviste, risponde a domande che prevedono la sua capacità di riconoscere forme e colori, nonché di categorizzare alcune cose che gli vengono mostrate. La diffusione di questa notizia è senza dubbio meritoria perché dovrebbe portare acqua al mulino di coloro che si rifiutano di assegnare alla razza umana un posto privilegiato nell'universo in nome del fatto che ad essa e soltanto ad essa sarebbe toccato il beneficio di possedere un pensiero ed un linguaggio. Bene, tuttavia, per un caso della sorte e per la mia scrupolosa attenzione di archivista, diciamo anche, sono in grado di documentare che questa notizia, uguale, stesso nome del pappagallo, stesso nome della sua insegnante, stesse domande e stesse risposte della stessa intervista, era già stata pubblicata. Sì, non due giorni prima, non un mese prima, no, bensì è stata pubblicata il 14 maggio del 1990 sul Wall Street Journal. Sembrerebbe allora che il direttore del Corriere, o chi gli dà il permesso di combinare l'intruglio che quotidianamente propina alle masse, ci abbia pensato su 7 anni prima di dare il visto si stampi. 7 anni. La tecnologia dell'informazione, insomma, vabbè, sarà anche mirabolante fra computer, reti telematiche e satelliti, ma a questo mondo vige la tendenza a somministrare e risomministrare il già detto, esattamente come nei tanti canali televisivi, no? È del tutto usuale riproporre più e più volte gli stessi film o la replica di che sia, previsioni del tempo fino ad ora escluse, ma presumibilmente più per poco. Un ricordo commosso ed un'edizione critica del colonnello Bernacca, per esempio, se non ci sono già stati, non dovrebbero negarceli più a lungo. Il nostro tempo e la qualità delle nostre percezioni ci sono amministrate da altri. La trama del mondo e il ritmo dei suoi eventi sono disegnati e scanditi per noi da un sistema ebete e crudele che nella ripetizione coatta, nell'impoverimento ricorsivo del senso, ottiene la propria sopravvivenza e la nostra mortificante consolazione. Si tratta di un sedativo potente che per garantirne la distribuzione più capillare va elargito più volte al giorno, sotto forma di giornale, di radio, di televisione, di internet, anche al telefono. Ogni mezzo di informazione oggi trabocca di storia e scienza riciclata, di cultura puerile e avvilente, di pettegolezzo frusto e usurato fino a quell'osso su cui non rimane alcun brandello di significato. Non c'è denuncia di orrore che non sia confezionata assieme a qualcosa ridotto convenientemente alla dimensione di curiosità, qualcosa che per essere propriamente tale può anche essere stata già detta 1000 volte, come una risposta di cruciverba, come il tassello di un mosaico chiuso dove non si può entrare e da dove non si può uscire. E di tale consapevolezza non è neppure lecito gioirne, perché, come diceva Erzen in quella sua lettera del 15 gennaio del 1869, Alexander Erzen, da Nizza, a un vecchio compagno, diceva: il vecchio ordine di cose è più saldo per il fatto d'essere riconosciuto che non per la forza materiale che lo sostiene. Il che è ben chiaro laddove, pur non avendo una gran forza punitiva o costrittiva, il vecchio ordine di cose riposa fermamente sulla coscienza involontaria, sulla arretratezza della mente e sull'immaturità delle nuove idee. Considerazioni meste, angosciantemente effettuate più di 100 anni fa, vedendo già allora svanire il sogno della rivoluzione. Considerazioni che ora, ahi noi, ci tocca ripetere, pari pari.